Io, Nabucodonosor, ero tranquillo nella mia casa e prosperavo nel mio palazzo. Ebbi un sogno che mi spaventò. I terrori sul mio giaciglio e le visioni del mio capo mi sconvolsero. Per mio ordine uscì un decreto che convocava alla mia presenza tutti i sapienti di Babilonia perché mi dessero la spiegazione del sogno. Così si presentarono maghi, indovini, caldei e astrologi. Io raccontai loro il mio sogno, ma non mi seppero spiegare il suo significato. Alla fine venne alla mia presenza Daniele, che aveva nome Baltazar dal nome del mio Dio, e nel quale è lo spirito degli dei santi, e gli raccontai il mio sogno. Baltazar, capo dei maghi, io so che lo spirito degli dei santi è in te, e nessun mistero ti è impossibile. Ecco il sogno che ho fatto, tu dammene la spiegazione. Le visioni della mia testa mentre ero sul mio giaciglio sono queste. Ecco un albero al centro della terra. La sua altezza era straordinaria. L'albero crebbe, diventò grande. La sua cima toccava il cielo, si vedeva dall'estremità della terra. Il suo fogliame era bello e i suoi frutti abbondanti. In esso era cibo per tutti e sotto trovavano ombra le bestie del campo. Tra i suoi rami facevano il nido gli uccelli del cielo e da lui prendeva il cibo ogni vivente. Mentre io contemplavo le visioni della mia testa sopra il mio giaciglio, ecco, un vigilante, un santo, scende dal cielo. Egli grida con forza e dice: «Tagliate l'albero e spezzate i suoi rami, scuotete le sue foglie e spargete i suoi frutti». Gli animali fuggano di sotto a lui e gli uccelli di tra i suoi rami. Tuttavia, il ceppo delle sue radici lasciatelo nel terreno, legato con catena di ferro e di rame nell'erba del campo. Sia bagnato dalla rugiada del cielo e con le bestie abbia la sua parte sull'erba della terra. Si cambi il suo cuore di uomo e gli sia dato un cuore di animale. 7 tempi passeranno per lui. Da un decreto dei vigilanti viene la decisione e dalla parola dei santi la sentenza, perché i viventi sappiano che l'Altissimo domina sui regni umani. A chi vuole li dona e innalza su loro i più umili degli uomini. Tale è il sogno che ho visto io, Nabucodonosor re. Tu, Baltazar, dammene l'interpretazione, poiché nessuno dei sapienti del mio regno fu in grado di spiegarmelo. Tu invece lo puoi, perché lo spirito degli dei santi è in te. Allora Daniele, soprannominato Baltazar, rimase come interdetto per un po' di tempo, giacché i suoi pensieri lo turbavano. Ma il re gli disse: «Baltazar, non ti spaventi l'interpretazione del sogno». Baltazar rispose: «Signore mio, il sogno sia per coloro che ti odiano e la sua interpretazione per i tuoi nemici. L'albero che tu hai visto, grande e robusto, la cui cima toccava il cielo, visibile per tutta la terra, il cui fogliame era bello e il frutto abbondante da nutrire tutti, sotto il quale cercano ombra gli animali della terra e nei cui rami nidificano gli uccelli del cielo, sei tu, o re, che sei diventato grande e potente. La tua grandezza è cresciuta ed è arrivata fino al cielo e il tuo dominio fino ai confini della terra. Quanto al vigilante, al santo che il re ha visto scendere dal cielo e dire: abbattete l'albero, distruggetelo, ma lasciate nel terreno il ceppo delle sue radici, stretto in legami di ferro e di bronzo sull'erba dei campi, sia bagnato dalla rugiada del cielo e la sua sorte sia con gli animali della terra, finché siano passati per lui 7 tempi, questa è l'interpretazione, o re, e questo è il decreto dell'Altissimo riguardo al mio signore, il re. Ti scacceranno di mezzo agli uomini, e con le bestie della terra sarà la tua dimora. ti si darà in pasto l'erba come ai buoi, e dalla rugiada del cielo ti lasceran bagnare. Sette tempi passeranno per te, finché tu riconosca che l'Altissimo domina sopra i regni umani, e a chi gli piace egli ne fa dono. Quanto poi all'ordine di lasciare il tronco delle radici dell'albero, significa che il tuo regno risorgerà appena tu avrai riconosciuto che i cieli hanno ogni potere. Perciò, o re, accetta il mio consiglio. Riscatta i tuoi peccati con la giustizia e le tue colpe con la misericordia verso i poveri, affinché la tua prosperità si prolunghi. Tutto si realizzò per il re Nabucodonosor. 12 anni dopo, passeggiando sopra la terrazza del palazzo reale di Babilonia, il re prese a dire: «Non è questa la grande Babilonia che io ho costruito come residenza reale, con la forza della mia potenza e per la gloria del mio splendore?» La parola era ancora sulle labbra del re quando una voce scese dal cielo: «La parola è per te, o re Nabucodonosor. La tua regalità si è allontanata da te. Di mezzo agli uomini ti cacceranno, e con gli animali del campo sarà la tua dimora. Erba come ai buoi ti daranno in pasto, e sette tempi passeranno per te finché tu riconosca che l'Altissimo domina sui regni umani, e a chi gli piace li concede in dono». In quell'ora stessa la parola si compì su Nabucodonosor. Fu scacciato di mezzo agli uomini e mangiò l'erba come i buoi. Il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo, finché i suoi capelli crebbero come alle aquile e le sue unghie come agli uccelli. Ma alla fine dei giorni io, Nabucodonosor, alzai i miei occhi al cielo e il senno ritornò in me. Benedissi l'Altissimo e lodai e glorificai colui che vive in eterno. Il suo potere è un potere eterno e il suo regno di generazione in generazione. Tutti gli abitanti della terra sono reputati un nulla, secondo il suo beneplacito agisce con le schiere celesti. Né c'è chi possa trattener la sua mano e possa dirgli: «Che fai?» All'istante stesso mi ritornò la ragione, e per la gloria del mio regno, la mia maestà e il mio splendore ritornarono a me. I miei consiglieri e i miei grandi mi reclamarono. Fui riposto sul mio regno, e la mia grandezza si accrebbe maggiormente. Ora io, Nabucodonosor, lodo, esalto e glorifico il re del cielo. Tutte le sue opere sono verità, tutte le sue vie sono giustizia, e coloro che camminano nell'orgoglio, egli li umilia.